discrimination, sono più negro di Basquiat su una traccia. Fanculo Hitler, creperà, bam bam. Sono più negro di te su una traccia. R&B, la mia rima molesta. Ti da sola, fatti la cresta. Ti blu e viola. Oh, c'ho più croci sulla schiena che ali. Eppure i miei versi sono immortalità. Chiedo da Satana vanità. Scriverò su una traccia, cia cia cia boom, cia cia cia cia cia cia ric, cacciati la lingua in bocca. Io ci punto una Colt mentre guido una Rolls Royce stavolta. John Travolta su una Cadillac, yeah. Understand everything, can I copy all the greatest things in the world? I can understand everything I wrote. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Io sono il capitano, il marinaio. Io vado, ti sdraio tre volte, Romario. Sotto il sette, bugiardo, life is not a football game. But it's a metaphoric, it's the same. Rewind in my mind, I just explain you better than in one time. I can't explain of you, Lord, it's my mind. My rhyme again, again, again. The rule is now not the same, bruh. It's just musical. The words are mass. Oh, oh, the world is must. Oh, oh, the world is must be. Musicality is a no. I made my revolution game. My rap is a revolution. It's a show. The back you are creating now, cause you understand my rhyme like a clone. Your tears down, my tears are up. In this game I'm beautiful beat. My beautiful beat. Ti seguo tire. Seguo gami. Amiga. Amiga 1230, questa città impazza, il Dario trema tutto, mentre la sua stella su una base tipo Nietzsche danza. Trema clap, oh oh, il disastro io farò, freestyle io go, go go, go go, another time, another rule and I cry, is a colpo grosso. Lei mi guarda tipo c'hai la rap addosso. Chili tipo chili meno addosso. Papanna now. I can be your Superman. Supero i clown. Now, now, now, now, now. Now. One, two, three, four. Andiamo tutti a fa culo. Oh, e chi dice che questo non è freestyle? Beh, conosce forse un pilo di più il digiuno. Il digiuno. Di chi sta solo e prega, ma a me me ne frega un cazzo di chi sei, quindi io mega, sono l'alfa e l'omega del rap game, dall'university fino agli United Wings, my streets in boulevard, my stars on boulevard next. 50 cents. I give you last chance. A next show. Oh, this is a next show. Oh, this is my show. Oh, a dream on. Let's go. I'm beautiful. This is my rap game. This is the you shot me to the R&B to play. One, two, three. Be on a stream, on a streaming. This is a better than mainstreaming. I sing composer. Put me in the role. Modern. You are crown to me on danza. Volume to my stick, bitch. I'm a love gangster. This is a zen circus. An urban zen circus. We can made a now on the base a circle. Lie on your songs, be a stream in the words. You, this is your time now, child. Now your time to write your story now. Wow, wow. Se sapessero che sto facendo, che stai facendo, direbbero tu wow, io wow. E vado più veloce, ah. Buncia. This is a new buncia. Buncia with a trap gangsta. The club stanotte salta. La festa, la festa. Panca bestia, party, party, panca bestia. E basta, io voglio una girls bitches su staraglia. Mentre mi mettono sulla testa una taglia. Ah, ah, ah, ah, ah. Level up for the roll against a level up. This is a honesty. Mamma, dramma, finisce stavolta, svolta, e greppo senza canna. Holy mama drama, maybe you can describe my pill for my drama. Ah, drama, mezza rima, mezza anima mia. Scrivo oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh su una base. Oh oh oh oh oh oh oh, schiarisco la voce. Ti mando le ali e la croce assieme. Vestiti bene, vestiti bene, bene, bene. Gucci, Levi Strauss e Gucci, Fiorucci, Ricucci. Mettiti la cinta con il girasoli, con la grinta di chi dice ciò che pensa è densa. Meno sta rima ora vola. Voglio una fly su ogni parola, su ogni parola, su ogni parola. La fila, il botteghino. Rimo, Rino, Gattuso, mettiti a sedere, questa è rap, non è calcio intruso. Ma c'ho la stessa grinta di Gattuso, su una base diffuso, l'infuso in un tè. Mettiti a sedere te, io ti faccio un tè fatto di rime, ancestrali parole, rimo come se fossero storie nella mia mente, ora vado più veloce così nessuno può seguirla, nessuno può seguirla, nessuno ora magari ci sente, pure il vicino lamenta, lamento la mente mia viaggerà per sempre, non la puoi fermare questa storia per me. Io immortale su una base a... Mighty Art. Oh, oh, abbassa la voce, c'è, non è mica. Oh, è lirica, c'ho una pillola prescritta che si chiama oh, for me is lyrical is everything, the nervous damage on my brain and going clarity, oh, oh, il microfono, il mio psicologo, il mio analista mi fa meno daltonico, oh, ora capisco il colore sinfonico della sinestesia, io sono tutto liricamente un farabutto, rumori belli dal cielo, manco fossero parole, il mio rap rischiara il sereno. Oh, oh, and a microphone abuser. No, oh, less loser than the past. I have it in my hands. They follow me with my voice. My shady run with me. Your shady run with me. And they are gonna to listen this fango to my lyrics. I'm jigger shit. Cause I'm a his best fun and I'm an alien on the base. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Rimo da quando io rimo, rimo da quando io rimo, ritmo sto ritmo. Io rimo da quando io ritmo intanto, io ritmo inceppami sta lirica, diversi la mia mimica, mi userai come uno stilista, il vigiagista. Pucciati la faccia in ogni mia rima, io sono il vento, io e Totorrina su una base, distruggo la città, bruciami in testa, bruciami e fammi sta festa, destra la mia mano mica, io sono il diavolo, no, io sono la santa trinità vivente, santa mala, mica un deficiente. Non ho niente nella mente, ma liricamente mi esce tutto per sempre. Bam bam bam bam bam bam bam bam. Questa roba l'hai già detta, dice l'incompetente. E questa roba l'hai già detta. Mia madre dice sta roba è per sempre. Sta roba è per sempre. Sta roba è per sempre. Holy gangsta lady, I gonna make you you. You ain't crazy now. Userai me per sparare. Ain't crazy, right? Ho! Oh. Meda clap for me club. Meda clap for me club. Blows on the dance floor. Come Michael Jackson. Yo! I let you go on the wonderland in your mind. My heart's got buried one time. Let no show. Stavolta faccio show. Oh. With me, Fries, go, go, go, go, go, go. Oh. My legendary flow. Oh. Santa Mala, G-Unit, segui il beat. Oh. Second roof, fammi un beat. Yo, yo. Io ci rappo freestyle per lo show. I follow the head and roll down my road. It's blood soccer now. This is a holy shit. I pray for Lucifer on mercy. Don't choice. This is a miracle of voice. Oh, oh, I follow rock and roll, wrong side of worrying me on the road. This is my mysterious well voice now. The spirit of Salvatore, my lipid. You. Mysterious flowers I brought now, wowing my wife of my past, of my now, of my next, maybe. Oh, perché dico quello che pensa, quindi faccio tremare anche scedi. Volevi un VS con me? Faccio tremare sisteri, come Jack la Furia. È il new Chapo, è il new Chapo. Metti via il Vunciaco, bitch. Tu su queste cicatrici capisci solo ciò che vuoi tu e dici me al contrario che dici. Non smettere di cantare, non smettere di freestyle. Vai avanti e racconta la tua storia alla nazione. Omen, come un omen, come un no. Wella, wella, omerga, ema, emo, ema, rimami meno scema che magari sta scena la facciamo tremare, tremare. Oh, oh, oh, oh, oh. Running, running, running all my thoughts. And I'm an incriminal job, boys. And I'm a joyce on the flutes. Oh, cautious now. Oh, are you retired, B? Yo, I make you breathe. Yo, this is a legendary mind. Ti faccio un quiz tipo buongiorno Mike. Anzi, buongiorno Mike, tutto bene dall'aldilà. Fammi un quiz meglio di ste sceme, ste scene. Più osceno io, il freestyle me lo scrive direttamente Dio. Ole, ole, ole, ole, ole. I'm running with the joyous lyric on my voice. This is my psycho, my killer. Killer on the bass, on the race. Freestyle race. Run with me, run with me. I need a crew to be my demon scammies. My crew of disease. You're catching disease, no? No, make you catch me disease again, no? Now catches this is a DJ too. I explain all over the road. Now Shakespeare is the wisdom. I know this is a joy, just a Shakespeare. It's a joy. Eccetera, eccetera. Potrei rappare tipo eccetera, eccetera. Potrei rappare tipo veterano del rap, io dico, non sono mica un emergente, precurati un salvagente, anzi una procura, cazzo denunciami in questura, dosi di bravura che neanche tipo te, Nintendo, Nuendo, Wii, Nintendo. ripetendo, riecco, ristendo la stessa riga su una base. Ci mando in fase tipo anche il pusher. Pushaci, pushaci, pushaci, pushaci. 9911, ecco l'ambulanza di sto clown. Lo portiamo all'ospedale, frate, continua a rimare. Tipo nodo scorsoio, continua a lamare. Non abbiamo bisogno di cicatrici. Che dici? Ispirazione, oh, che dici? Yo, talento puro, ma this is my clean out my closet like a shady maid. This is my zen urban circus. Donder the Buddha world. Oh, oh, oh. Buddha non si tocca, no, no, come Gesù, no. Holy shit, this shit I brought in my destiny, my head not. Yo. Faccio tremare casse tipo yo, this is my swag, che ne dici? Second roof, dammi un'opportunity for me. Clap Doggle, make me mix your and remix, bro. Balanzasca, oh no. Oh, Dan Fossi, give me a note, non so, io partire tipo I don't know how much is well this baseline, this baseline, this crazy time you pays are my space bomb, and you are clown, not me, Buzzy. Busy, goi busy, busy bitch now. Cause I'm a criminal. Some people think I'm a foot of faces and pick up all the voice. This is I give your voice with music, lady. Oh, oh. Whoa, perfect, man. This is a new dimension of yourself. This sound for love, listen. This groove, bitch. Vado a tempo, che ne dici? Mille cicatrici, mille cicatrici. Le annacquarerò con alcol orco. Vattene fuori dal cazzo, porco. Oh, adesso è rock and roll. I write all my notes like I have a lifetime of my mind, of my mind. Sorry, we want to make you a star. Oh, me, thank you all. For the marginalized people on this base, I say my law, law, law, law, law, new law, law. Running this record, Gangsta Love, Manco Force, Snoop Dogg. Thank you, Snoop Dogg, for all of you have wrought. for love, a new passion. Music is my dimension of love. Yo, no remorse for all of my other questions. You can express your love on a modern dimension. This is my music, this is my passion. From the heart, maybe you are asking me, where is the heart? It's the greatest thing on the brain. Oh, and then the romantics is in the heart. For lyrical genius like me is in the scene, yeah? Oh, this is my superstar thing. Don't think now better on the sorry of people. Don't think now you dry my speech, my sing, and the best of meaning in the rap or history time. Yeah, I sing with my population. I sing the voice of nation. I sing my, give me a voice to destroy this base again. Mi trema la motosega tra le mani. Oh, tieni a posto la sega tra le mani. No, abbatti tutti sti alberi piangenti, che nascano fiori di denti. Oh, all of my notes is a cultural flag. To red baby Avro, if you wanna think he genius and has become a genius and has become a genius and has become a genius, cause he's special, bruh. Everything. Mama, don't cry. Oh, mama, don't cry. Oh, don't cry, this is a rock and roll. Oh, su questa base mi fa sentire più di Elvis. Quindi kick me softly, beat. Su quel molo era rock and roll senza i Kiss. It's is your fool. I said, smack all the bitch now. Smack the gangsta bitch with my kiss. All your kiss in your face is my, and I'm a super fly. Sorry, mama, I never want to meet you, to hurt you, but to spend my time with you, like you are my best friend in the past. Oh, questa è una fina magaga gangsta. Oh, maybe shady. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Io non ti sfido, io ti disintegro, figa, hai detto una roba sfida. Però te la meriti un po' la sfiga. Un applauso alla scena. Oh, c'ho la scena tra le mani, guepe, maybe salutami domani. Domani già qua, domani già qua. Tomorrow land, maybe in this game. Ma poi 3DJ, come disse quel coglione di Candela quella sera. Poi 3DJ, fammi un tie, perché non ti basta avere due brain, tre brain su un palco. It rain, will rain. I made you pour from your soul, bitch. Against a lover. Oh, my 40 February is coming to rise. Oh, sorry, mama, for all my solitary time. This is my English lesson I learned. Oh, maybe your first term, first note, first note, first note, first note. I wanna hop on your first note, sing your first note, first note. You are first in this game, I come in for second. By third in this game is difficult. We have a West to Boulay and Bazzy Rustation. Rustation meditation. Ooh. Is a light Russian roulette and the same Boulay and Bazzy in the same time. And both just cry on me, cry on me. La percezione del dolore, the pain perception of less, less, now is now enough, like a perfection is the same now. I think for you, run, run, run with me. Ooh, oh, ooh, no, ooh, no. Oh no, oh no. Clap, clap, clap, clap, dance, clap. Oh, oh, oh, oh, mentre un tavolo faccio spa, sciorime manco, schiavi tuoi contro your Tyson. Vendo sta roba al nuendo di ogni anima più. Il winning tendo, ritorno ad amica, tu sei mica una mia amica, sei una figa, quindi amica mia, chiamate la polizia, che vuoi che dica, oh, per me sei una figa. Rose nere nel tuo profumo, il sudario di Gesù non te lo toglie, non me lo toglie nessuno. Oh, oh, all John, John Club, Club, all giant in the club, run, run. First in the Lamborghini in Macellago, I arrive in the solstice of febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, sei la mia estate, sei nel mio pugno. Oh, oh, oh, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, lo volevi un West, ci troviamo sul palco io e te, ed è questo che non si aspettava. Na na na na na. Nuendo in strada, minuendo in anima. Questa non è una città, non è che fai il rap e ora ti senti una star. Oh, and going like a celebrate your shit in a head and pam, pam. Sorry. Don't, ho, ho, ho, and this is a lyrical for all. Pitbull, no, no, motherfucker, rider, this is all my superstar. Recover me in un letto psichiatrico, picchiami, dammi 200 vaglio malitri, io pezzo ne so, tua sorella non la conosco. Lo vaffanculo, rieccoti, ti lascio a digiuno tipo pagine che non hai mai scritto, sai, di foglio bianco di povero Cristo. Io divento tipo Giuda, una volta ogni tanto faccio Giuda, vorrei venderti per due monete disoneste. Azzo, pazzo, rima bene e male come fosse la distruzione intera di un palazzo. Pazzo, sono pure, oh, Borgogna sulla base, c'ho mille idee in testa, identità in fase di rollaggio. Pum pum, non sono mica Paolo Villaggio. Oh oh, io faccio un tuono sul flow, lo senti? Quando parlo dici, stai sugli attenti, però col flow magari non te lo so dire, ma te lo so repare, quindi stai attento. Se mi metto in fase ti taglio a fette. Sono Nightmare e Jason oppure Edward Mani di forbice, ti faccio un pettine. Lady, 100 colpi di spazzo, la 100 anni di solitudine. Mi troverai al concerto di Udine, di Marrakech, segue, portando sulle loro tombe rose. Onore a quelli del rap come me, che hanno liriche inchiostro nelle vene. Minchia Dario, su sta base viene. Meglio del sesso non sai cosa, poi cazzo nella tua mente inventerai, inventerai. Figa psycho, panico, i miei guaio. Oh, la maraca, fa la maco, non lo io so. Io so, io è chico, latino, non so. Te quiero, non te quiero. E nello stesso tempo io vado a tempo, manco un portento. Plagio, ti plagio su sta base, me ne sbatto il cazzo. Come Bansky, un vero artista ruba. Come Pablo Neruda, io sono una cazzo di spina che cogli rosa densa. Io non t'amo come rosa amara nei ricordi. Oh, quindi cazzo mordi, lau cazzo mordi. Suona per me il flauto tipo Beppe from Baghdad, my darling. Tu sei miei tarli, rimango qui ad ammirarti, ad ammirarmi, perché te mi fai splendere. Oh, it seems to become a boss now. In the plaza regard. For Dario, tattoo symbol on my right hand. Oh, you want my right hand? Oh, raise an ice girl for me now. Medicine painkiller function. Na na na na na na na na na na na na na. This is rock station, me ne sbatto tipo qui, tipo rock nation. Vorrei essere sulla pubblicazione più figa di Rolling Stone. Dammi un folk e gli chiamo, Federico? Sai che ti dico, gli chiamo, dammi Rolling Stone. Che cazzo me ne frega un articolo, poi mi suiciderò oppure farò uno show, rock show. Dammi pure dello show, meo, ah, figa, oh, mega. Oh, an information for you. I follow Alien Story in Omega Clip Pages. I understand all you sing, but I dream thinking about the alien in me. E se pensassi attraverso alieni, che ne dici? Sarebbero i miei versi meno scemi. Cicatrici sulla destra porto il tatuaggio di Lourdes, la sacra donna. Piangerebbe lacrime sta troia di Madonna. Con lo shit tu hai fatto uso. Pupu. come si chiama quella droga presa da bambini. Sta rima fa casini, sta rima fa casini. And you're disgusting me, and now disgusting you, bitch. L'adrenocromo, perché non te lo fai sintetico invece che dare l'adrenalina negli occhi dei bambini? Fuck you, fuck you, fuck you. Majesty 12, you are one, destroy this world, fuck you. I'm dreaming on these spaces, I gonna make you in crazies. I'm a indaco, baby, I gonna make you in crazies. My superpower all the rhyme, I feel all the vibe. And this rock and roll bass is running through my head, running easy for me. And I understand the tension on my head. Like a flower when a flower does well. Liricamente tutto, io del genio lo stesso, il talento, sua santità un portento. Sono Lucifero quando ancora non dico sfida a Dio. Non dico sfida a Dio. Non dico sfida a Dio. Sfiga tu. Cazzo, fammi cantare tutti i miei déjà vu. Più potere hai, più urlerai. Io sto intonando un canto con tutti i guai di sto mondo. Oh. You softly, I kill you softly, bitch. And now in a swing, now I'm a lady swing. Flyer, flyer, fly with my swing, my whisper. I'm a mama cry, I'm a left swing, right swing, a bright in ink, pages in a memory time. They say me, they understand me after death, after this time. Oh, I dead now. On the bass, this is a race now, girl. This is my crisis in my head. Tu l'hai nominato, io non sono rinato. Oh, oh, motherfucker. Oh, flower, white flower, motherfucker. I'm your king, understand this. Yo, wife, come dice il sociologo mio dottore, io levo Strauss nella mente, le corde, sociologicamente, tu potresti dire vincente, vincente, celebro la sociologia tutta. Mata, dimmi una nota sulla destra, porca troia, vabbè. Sono qui, ti dico soltanto che mi hai chiamato con un altro nome. Smettila, vabbè, cantiamo insieme, tanto lei non viene con te, con me più swag. Non dire no, vabbè, parti, yo Dario, allora andiamo forte. Io sarò per te un oracolo, uno rango, tango, cazzo no, tango. Tango e cash, yeah. Oh, si è messo in fase pure quel tuo amico dell'Emilio, eh. Yo yo yo yo yo yo yo yo, non farmi più pensare a tutti i miei, sarò ma ora fa. Yo, why not, why not. Phoenix risurgi, dice Raffo. Faccio bella donna su te un ostaggio, io sono Dante, mica Paolo Villa. Io tutta la mia anima, liricamente tutto. Mira. mira bene in testa. C'ho pure una frase che non dico perché mi rovinerebbe la tresca che c'è in tasca, non puoi capire, frate, lo capisci, sono su una base tipo un aeroplano, una scena spaziale nel mio cranio, nel mio cranio. Io sono tipo Frank di Donnie Darko, col mio coltello ta ta ta ti ucciderò, ti metterò in difficoltà sulla tua coscienza, qualcuno, il karma puttana, sparerà a te e me. Che me ne frega, dai tantre, meglio dai tantre, meglio dai tantre, oh Buddha. Io sono il tipo della giungla, oh Akira. Mettiti in testa il tuo progetto, vibra, figa. Sulla base sono tipo una miga potenziata con 200 RAM, pensieri quadruplicati, ciò dentro un'equazione che lavora esponenziale, tipo grifone che punta alla luna, tifone, Saturno nuttone. Dottore, pausa per favore, sto svenendo. Datemi un mitragliatore, Wii Nintendo. Oh, this is a rock and roll, mama. Drama, this is a little bit clown shit. Oligarchy or three birds in these cities. We underground boy, oh, che ne dici di fare il nome di Betty, Mata, Lorenzo, Dariol? Sono il Santa Mala, vola. The everything voice on this note. Noi cantiamo in tre nella mente di Dariol. Siamo in tre in questa mente, easy per sempre. Allora, al mio rispetto tutto, hai capito esattamente la trinità, il mio lutto. Sento vibrazioni d'occulto, frate. Sei il primo a farmi sentire vibrazioni d'occulto. Io urto muri, Medjugorje, il muro del pianto, la Mecca al vanto, pietra nera casa mia, fia, fiega, miega, mega, oh. Stiamo andando flow sinesteticamente, Dariozza è la mente. Il canto, la lirica, la storia che doveva essere dimenticata del trio Sant'Ammala, Eldorado, onorato di stare su il tuo disco, lo capisco, ma ti uccido quando fristo il tuo disco. Io l'onoro, lo capisco, ma Santa Imala ti ucciderà il tuo disco, perché noi vogliamo anarchia detta a naso, con il naso, non è solo, è a caso, no, è a un volo. Fabio Volo, scusami se ti ho offeso, due pechegno, ti ho sempre celebrato, Marrakesh, il tuo giotto mi riempie d'orgoglio, fango, disturbi della personalità che ogni persona ha, il fango, 1, 2, 3, spara alla mala, Santa Mala ha la gomma che cancellerà 'Ndrangheta, il poeta si inala, profezia di dignità, oh oh oh, mamma, il mio dramma è la mala, io sono rock and roll and drum, bass, dramma, una rima, un grammo di troppo da lo verdo di ogni parola che ho, oh, oh, oh. Quando ho questo flow metto a sedere l'imperatore che sente il clown poseggiare overdoso su sta base, un miraggio, cazzo. tu non sei. Sei selvaggio, ho detto meme, perché sennò sembravo ancora più scemo. Invece oggi voglio il cucito my last money on my right poetry. Oh, prega per noi peccatori, Gesù, dignità sei tu. Su questa base prometti non pregare male, pensi male, no? Io sto cercando di rivelare, oh, posizioni sacre, l'amore e il sesso per me è holy shit. I'm not a alcoholic, preferisco un gin tonic. Stavolta fra sono ironic, magari su sto cazzo è più del sesso, no? Bitch, switch, reach me and more, put me less than her and we are love against them. Oh, stagna sulla base, oh, oh, oh, oh. Oh, stagna sulla base, rolla bro, bro, bro, bro. La nave dei marinai, nave nera, origami e arakiri samurai. Se non ce la farai, io ce l'ho fatta e non so come. Mysterious welcome Eminem. Oh, oh, oh, oh. Underground ho detto, quindi pippa ti sto confetto diretto in naso tipo future high people. Bambini dimenticati per strade, oh oh. L'occulto detto da un bimbo fa paura, prova ad andare in strada, robe da no censura, oh oh. Oh, ula ula ula ula ula. Catch me flow. Catch me flow. Catch me flow. Oh. Bella artist di strada. Fate i madonnari, bella strada. Metti giù un cappello, sgancia soldi. I sacrifice all my money for a smoke free one day. Pusher butta giù 0-2 a ciascuno one day. Hey, this is a miracle in the street. One time my mama is a crying. I soldi che non bastano mai, i soldi della stufa. Comprare legna non scalda abbastanza una room suca. Io donerei tutto l'un per mille a Fondazione Macchi per trovare cure per su Currarino sindrome. E oh oh, clap hands clap, holy shit. La strada trema, la mala fango mega, fango, mi dicono fango mega. Parla ancora di strada. Oh, suggeriscimi una rima strada figa. Ci ha sentiti, oh, whisper on the bass bro. Quando parli di mala devi essere la voce più sensuale che c'è. Brada, brada, miri, non piangere per sti versi. E che tiri? Claver, tirati un po' sta base, tossicità, ah, addio ma, questa rima è per te, tossicità, ah, ah. sto per ripulire. Oh oh oh oh oh oh. Non è mica la droga che canta adesso. Oh oh oh oh oh oh. Io del genio, il talento, il prodigio, lo sesso. Oh voglia di una droga fatta di te, fatta di sesso, sesso. Oh oh oh. Questo è rock and roll. Lui è un poser su questo base. Quindi original sesso. Facciamo peccato, mangia sta mela adesso. Oh oh oh oh oh oh oh. Mi sembro Mozart rinato. Oppure sono solo uno sfigato. Ups and down come nel limbo. Battesami sta mano. Ho problemi di soldi e vorrei una vita con lei. Che dici? Pagami, pagami sta mano povera con 2000 euro, 2000 baci. Voglio 2 milioni di euro, brappa. E tutto il clap, clap, clap. Vogliamo vivere una vita alla moda. O di droga, o di droga. Come dici e Fabri Fibra. Accendi un buon fibroga. Il fango droga l'oso mente sana in corpo. E sano eppure c'è qualcosa dentro questo harem. Oh oh oh oh. Namma Denza genius in a stanza room in this hotel. I cry like a Morris on hotel. I suggest you in a base my telling cry. And the metaphora, this is my metaphora speed. Cause I'm like a Jim Morrison when I dream. Finalmente mia madre mi sente cantare vicino a me al cuore fino alla morte. Vorrei lei vicino a me, il fiore più bello sulla mia tomba. Power punk rock again. Endorphin in my heroin. Aluminium paper punk rock. I smoke like a cretin. But now rock. Margot, sono il tuo Lupin. Io ho rubato tutti sti Basquiat, Picasso e Degas. I am my Rembrandt, I am a Claude Monet. 1929 like a... L'alba di un altro giorno. Frate mica mai buongiorno, oh, io zapperò su una tele prima di morire. Fatemi fare pure a me zappi. Questo è il mio tap, clap, il mio wonderful the rhyme. War reason why perfect. Or less than, or more than. Come miss, this is miss, miss a bandero in the club. Cadere giusto per me, ok. Su una base più cool vorrei. Manco me la posso permettere sta base. Miro, ti faccio smettere di pensarti, Miro. Oh, oh, I have a lady Diana candle on my nose. Oh, Lady Susanna, questa la canto per la nonna. Lady Susanna, la canto anche per la nonna. Bravo fra, mi sentirai vibra. Anzi sono il tuo vibratore, chiama pure il vibratore. Su questa base poi anche la Grigoracci lei verrà. Dammi un milionaire, anzi 2 milioni, anzi dammi air, meglio dei soldi, le. Ecco perché ho scelto Rai Mello. This is my gangsta, no. This is my gangsta, no. Rhyme and reason, no rhyme, no reason is a spettacolare surreale. Ma chi è Mozart? Dice mia mamma. My mama on your lips, oh no. Close your lips now. I'm gonna close forever your lips. In my question, don't put me like a meaning, no less. I'm not less. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Bravo, che strano che ci sei messo. Oh, è così pulito, pulito. Come Marrakesh vado un cinese con te. Mangio sushi e sbocco tutto. Oh, sto sfidando i nuovi dei. Sono Farabu. Dipende come sta nuova rima la bu. Pausa. Ecco vado. Corro forte e perdo. Riprendo fiato. Come frozen like a snow. The force right is Fabri Fibrano. Oh, see my lips, bitch. This is my second turn to explain you are rich. Reach maybe my heart, please, with your sweet. Vorrei parlare col mio avvocato. Dirgli quanti soldi posso fare con sta roba che ho scritto. Se esiste una dimensione dell'arte nel diritto. O se va riscritto tutto il codice penale. Perché la società tiene soli 1 milione di persone che si meritano. Oh, e forse c'ha ragione il Dariole. C'è una questione da risolvere in penale. Tu mi volevi soffocare. Come dice il mio dottore, ne ho un arsenale. E mettimi su second roof, please. Shame my notes, my new school bullshit world. Cause me against the bullies. You wanna take me outside of the orchestra. Ma me la sono presa. E ora questa storia è tesa. Dariol, circunnaviga il mondo e fare in culo. Tu ci vai adesso, ma prima te la canto. Poi qualcuno nel secondo tempo in cui tu potrai capirla te la spiegherà sta rima, che è talmente lirica che va veloce come una lirica o scena lirica, mentre tutto si porta svastica. Hitler, devi morire. Signore, scenderò in guerra con questa spada. Bravo, bravo, in guerra per l'antiquariato di Santiago. Outsider artist vale milioni di euro, tu ora sganci soldi. Me ne fotto se ti piace o no, comprala, un giorno varrà di più. Oh no, oh my, holy no. This night, shady like in a paradise. This night I run all the club. Oh, oh, oh, oh, oh. Passa la voce, stai facendo paura. Questa scena è più dura di quello che pensi, ma finché non mi stendi, sto in piedi. Mettimi su un palco qualunque, mi va molto, molto, molto freestyle colto. Stai facendo vibe con le labbra, qui ci sta un bacio, bacio di Laura. Anzi, su sto bacio voglio ne Joyce speaking, Joyce testing una laurea. Me ne frego, raga, sono meglio di te su sta figa. Trombarmela, fuck better, simply the best, tipo Tina Turner su una palla da demolizione come Miley Circus, che fa il nuovo rossetto. Comprati il nuovo rossetto di Miley Circus, mettitela su la bocca e baciami, tipo io around come un clown su un circo. Sulla mia cazzo di bicicletta non sono uno sfigato, te la prendo e te la getto in testa, perché sono in realtà un anticappato col cervello di un genio. Cause me I suck brain, and the ladies say I'm the next over best, tipo in Thunder. Oh, super shot tipo Top Gun, Tom Cruise. I wrote my note. This is a rock, hip hop, trap, middle finger roll. Tipo in Top Gun, my wrote my note. New rule, new super architect, anonymous rockstar on the note. Come Bansky ruberò, il vero artista ruba, e se mi dai dell'ego io eccedo, ti monto una casa intera. Me ne frega, raga mega, raga mega, se non mi dai il premio strega, raffo te lo strappo, me ne sbatto il cazzo. Se sei un, se sei un, se sei un, ti ho sempre rispettato e non capisco ora questa nuova posa, ma il Dario Alvainove Wright dosa con la penna all'inchiostro preciso come se scrivesse su un foglio. Me ne dolgo, Dario, non ti posso da, anzi sì, perché mi ha rispetta le mie parole. Ora ti vorrei scrivere una lettera better than una canzone. Supersonic, I gonna with my mind ultrasonic. This is my attitude, yeah. This is my attitude, all the clap clap, yeah. Frega un cazzo degli abati, dammi una macchina che me ne sbatto. Da dove vengo, da quanto tengo, da quanto valgo. Voglio una Ferrari California, guidare ready per la polizza anche con la sbornia. Talmente famoso da farmi una villa in California. Voglio cash e basta, me ne frego, raga, sono su questa base come Ortega. Faccio un cross a Mara, nell'aldilà zio prega per lui. Oh. Siamo a metà CD, metà mixtape. Die or death. hanno fatto più seduto, anzi toro seduto, anzi seduto su un trono tessuto di Maya, limbo, battezzati da solo, datevi un nome raga. Oh, i miei orfani ora suonano una melodia magica, imparati pure la logica, la insegna chi ha impara. I wanna be cars, nine life, change, ma senza blot. Io conosco una cosa che poi dirò, ti conosco bro, volta faccia o no? Non capisco cosa dico ancora, perché ancora posso parlare se puoi ancora o stare solo una sposa, una sposa, rivelazione, una sposa. Nine Life Revelation, faccio tipo carità alla nation, mi hai visto e mi hai ascoltato, sto CD te l'ho scritto ancora da ritardato, quindi non farti troppi scrupola, screpolati la narice, cicatrice della coca Agnelli, il campione Sgarbi Spinelli. Oh, oh, oh, non puoi dire questa cosa su una traccia, no, non puoi dire questo, oh sì, boh, mi autocensuro così da starti meno sul culo, perché incido questa base come un re, re, tipo re di sta proprietà, mi sembra il mio territorio e rap e mica il tuo, oso, mica il tuo, su sta base, oso, il mio territorio dagli anni 90, tornano gli anni 90, troppo presto. Na na. Basta. Fammi finire. Oh, basta adesso. Oh, oh, oh, basta adesso. Oh, oh, oh, basta adesso. Oh, oh, oh.